Una buona serata, Radio Città del Capo, cari amici radioascoltatori. No, mi sembrava che avessi di nuovo la voce in In cantina, cantina, no? no? Secondo In me. realtà è un po' incantinata anche questa sera, però poi con i microfoni ci metteremo d'accordo in qualche diavolo di maniera, ti assicuro che lo faremo. Va bene. E 451, quindi, che riparte anche questa sera con tante belle sorprese, cotillon e festeggiamenti vari, siamo quasi alla fine dei nostri giorni. Oddio, non dirlo così perché sembra Stiamo per ecco. suicidarci, in realtà quello è il discorso. E quindi, insomma, vi abbiamo pensato intensamente in questi giorni poi di ritualità funerea. Sapete anche già perché? Perché poi, tra l'altro, centriamo e come dentro questa ritualità funerea. Ritrattandola come facciamo spesso con tante faccende di 451, ovvero le mutazioni funk degli anni 80, quindi trasformazione OGM, potremmo dire funk OGM 80, chiaramente in compagnia di Eliseo Scarpa. e di Max Macchia. Va bene. Allora, praticamente sì, già il buon Max ha annunciato la trasmissione di stasera che è dedicata, l'abbiamo voluto coniare così, Funk 80. In realtà poi affronteremo delle produzioni musicali, dei progetti che partivano già dalla fine degli anni 70, ma all'interno del proprio percorso, della propria struttura, già avevano all'interno del loro suono moltissime sonorità che poi emergeranno negli anni 80, e dunque attraverso il funk ovviamente affronteremo tutte le diramazioni dal rap al proprio hip hop, all'elettro, ad anche una forma di elettrodisco, elettropop, ma anche addirittura delle forme di proto house e anche di proto techno all'interno di questi progetti che si dipaneranno a livello storico dal 78 fino alla metà circa degli anni 80. Dunque un percorso piuttosto variegato, ovviamente sono dei frammenti Amiamo, come come amiamo amiamo, noi i come cioè, frammenti, appunto, no? come Sono un noi po' stessi ci definiamo frammentati, come 451 frammenti sonori, anche perché il panorama musicale e progettuale di quel periodo è estremamente vasto. Noi ancora scopriamo progetti su progetti nuovi e dunque sicuramente foriero di altre scoperte. E apriamo subito, a meno che vuoi aggiungere qualcosa, facciamo un po' tipo tribuna morta. Oggi stavo sentendo Radio Radicale, l'Assemblea Nazionale del PD, E quindi sei un po' di era tribuna, bellissima, insomma. guarda, cioè, la formalità proprio portata all'esasperazione, tutto contato per secondi, Ma questi che sai. dicevano prego, vuoi intervenire, è tutto finto, no? Allora dicevo, vuoi dire qualcosa? Poi gli anni 80 insegnano anche questa cosa, poi politicamente corretto, che poi viene Eh sì. da certe forme, insomma, di post ipismo, è diventato New Age. Poi negli anni 80, appunto, con Reaganismo e con gli Young American Metropolitan, ovvero Yuppie, Eh sì, bravo, ti sei informato su questa definizione, grazie. bravo. Quindi qualità della vita, weekend fondamentale, fisicità, sesso, droghe, però droghe, insomma, socialmente piuttosto, insomma, esuberanti, quindi la cocaina che scoppiava, eccetera, eccetera, l'edonismo chiaramente legato a tutto questo ambaradan yuppistico e musiche che si cibavano di questa cosa, ma anche in una chiave dialettica, se vogliamo, se la parola non vi spaventa particolarmente, c'è anche appunto l'altra facciata, ovvero una facciata sporca. La facciata sporca, poi per certi versi la troviamo anche, e la troviamo anche in questi giorni, probabilmente, rivedendo MTV e quindi ruota e ruote di video di Michael Jackson, dove si vede una sorta di mutazione veramente OGM, nel vero senso della parola, e qua si potrebbe aprire anche il discorso su cyborg, eccetera, eccetera, ma io mollo qua, nel senso di un primo Jackson e poi di un secondo Jackson. E qua, vabbè, faremo anche una riflessione su quello che è appunto una mutazione fondamentale che è venuto nel corso del corpo black, e non solo, perché poi capiremo un po' di cosettine che sono successe. Vabbè, partiamo purtroppo, dato che il Sugar tempo è Hill. tiranno. Primo Sugar gruppo, Hill. Sugar Hill Gang. station. I'm ready. Rock the rhythm that I make your body. Take it on down. Ecco, siamo rientrati, splendido lavoro, assolutamente storico e unico dal punto di vista appunto musicale. Parliamo di The Sugar Hill Gang, formazione nata alla fine degli anni 70, introducendo le prime forme di proto rap. Questo è un brano che è uscito col disco proprio omonimo, The Sugar Hill Gang, nel 1980, però le registrazioni, i brani sono tutte del 1979 e dunque veramente in anticipo assoluto con i tempi. Il rap si sarebbe affermato un po' di tempo dopo e loro erano assolutamente una formazione d'avanguardia da questo punto di vista, formazione che vedeva la presenza dei primi, tra i primissimi rapper locali, in questo caso di New York City, cioè Master Gi, Wonder Mike e Bing Bang Hank, insieme agli altri musicisti che facevano parte della formazione, che mischiava chiaramente elementi rap, ma nello stesso disco uscito nell'80, omonimo, che abbiamo poc'anzi inserito in scaletta, ci sono anche un paio di brani che ricordano invece molto le atmosfere anni 70, funk e anche disco anni 70, mischiato ovviamente a queste nuove forme, dunque in chiave assolutamente dialettica, anche di continuità e di rottura nello stesso tempo, tra linguaggi nuovi che si intersecavano in maniera assolutamente plastica, oserei dire, uso questo termine che andrà molto negli anni 80. Poi qualcuno ti conosce anche come plastic. Beh, lo diciamo agli ascoltatori, i nostri amici lo sanno, qualcuno ovviamente riderà anche di questo, ma va bene. Appunto, formazione che appunto oltre ai tre rapper presenta anche la musicista del calibro di Edward Rogers, di John Jackson, di Frank O'Brien, formazione dunque assolutamente aperta, un collettivo vero e proprio che iniziò appunto anche a collaborare e a far entrare dentro il progetto questi rappers che poi continueranno l'esperienza di Sugar Hill Gang, che ha lavorato poi, ricordiamo, anche con il grande Grandmaster Flash, ma anche e soprattutto con ultimamente con Mark Stewart, ad esempio un concerto a Mafia qua di Reggio Emilia insieme, dunque anche, con loro, dunque sicuramente formazione da ricordare. Sì, da ricordare, da ripescare, non soltanto tra le memorabilia, anzi poi sentite un pezzo che è, come dire, uno di quei pezzi che segnano le storie comunque della musica, nel male e del bene, perché magari qualcuno potrebbe anche storcere il naso. D'altronde le musiche nere, soprattutto quelle degli anni 80, quindi questa mutazione è sempre stata vista un po' di cattivo occhio, perché figlia della disco, in realtà è completamente differente la cosa. Addirittura certo funky viene visto in, però lì vabbè, siamo alla malattia rocker o rockish, sì, dove appunto quasi tutta la musica ballabile, anche funk, quindi viene vista dentro la disco. In realtà le cose sono andate molto molto differentemente, ovvero cosa è successo a fine anni 70, la disco imperversava, disco che nasce dal Philly Sound, quindi dal suono di Philadelphia, un funky decisamente orchestrale, da Temptation, da cose di questo tipo, no? Ma Wakefield che curava certe cose, anche dei Jackson, quindi ritorniamo su Michael Jackson anche in questo momento, e Motown, quindi eccetera eccetera, che poi sarà insomma importante anche per la città di Detroit, quindi techno. Succede che la disco quindi stava imperversando alla fine degli anni 70 e stava un po' androidizzando il funk degli anni 70, tant'è che gente come George Clinton dei Funkadelic si muoveva contro la disco e contro questa sorta appunto di imbambarimento commerciale o di liofizzazione appunto funk dentro le macchine utilizzate più che altro per cavalcare la quattro quarti in maniera anche piuttosto piuttosto cavallifera, qualcuno direbbe, nel senso da ballare a mo' di cavallo sulla pista da ballo, e già nel fine degli anni 70 succedeva questa cosa. Il funk riscuoterà di nuovo il grande sussulto che fu dei primi anni 70 con appunto Sugar Hill Gang, Grandmaster Flash, prima appunto citati da Eliseo, e si riporterà un funk però dentro un suono che si è fatto già macchina, quindi già molti sintetizzatori che rientrano dentro queste musicalità, quindi si plastifica il tutto, ma è una plastica che come dire, fa anche male, una plastica piuttosto graffiata come quella appunto del vinile che utilizzavano i vari scratcher eccetera eccetera, come appunto anche gente che girava nel Bronx con la Sugar Hill, che sarà anche poi una famiglia, un collettivo e anche un etichetta discografica, e dentro una sorta di post disco e quindi pre-house ci sarà anche un personaggio come Peter Brown, che è un altro Peter Brown, che dopo magari spiegheremo anche chi è, sono due Peter Brown che alla fine degli anni 70 si muovevano, che si inventerà appunto un pezzo che poi sarà fondamentale per l'house di Chicago. Poi dopo facciamo un po' di ordine perché capiamo che abbiamo messo un bel po' di carne al fuoco. È buono almeno. Ma è così, è la mutazione. Beh, cari miei, vi dovete abituare al cyborg, è tutto così, è tutto mischiato, non si capisce più niente. We'll be right back. Rapper, dapper, stepper. Rapper Snapper, Rapper Dapper Snapper. È un, tutto un giochino che fa Edwin Birdsong, che viene dall'old school, old school funk, anche quella, se vogliamo, che trasformò il gospel di chiesa in una musica assolutamente stradaiola e profana, quindi dal sacro profano. Molti compirono quella strada tra la fine degli anni 60 soprattutto e i primi 70, appunto, con la generazione di funk, di hippie neri e quant'altro, di funkadelie, di immaginari afrocosmici come Sextant di Herbie Hancock, che sarà un album importante, fondamentale poi per Elettro, quindi per le cose di cui stiamo parlando, di cui sì, appunto, stiamo parlando questa sera. Edwin Birdsong viene appunto da una famiglia di coristi legati appunto alla chiesa, chiesa che appunto per musicisti neri si esprime anche in questa maniera, appunto col canto. Grandi artisti come Aretha Franklin usciranno dalle chiese, ma non solo, veramente tantissimi, collaborazioni con Roy Ayers, con il grande Stevie Wonder, una serie, insomma, di sfilze di varie argomentazioni funk con più dischi disparati tra vari autori, appunto, degli anni 70 e formazioni, e poi appunto un botto nell'80-81 con questo Rapper The Snapper, che si inventa, insomma, un strano connubio tra elettro e funk e quel senso pop che si incomincia a divenire, insomma, materia fondamentale per le musicalità nere, che trasformeranno buona parte della pop music, e con veramente anche artigianato che poi diventerà sempre più laboratorio tecnico, quindi se vogliamo pensare, insomma, anche a certo hip hop più confezionato che diventerà R&B degli anni 90. Faccende che appunto sono complesse. Io questa sera me la rivendico tutta sta complessità, se non ci capite niente fatti vostri. Ah, così, no, ma informatevi, insomma, cioè, la faccenda appunto degli anni 80 è decisamente importante soprattutto per le musicalità nere, no, perché mi scontro da anni con questi diavolo di teste di ghisa e di legno, non soltanto rockish, che appunto la musica nera sembra che sia soltanto Jimi Hendrix, che ho un piccolo altarino a casa anche su di lui, è buono, quindi prego tutte le sere, tutte le notti, ma insomma è una faccenda piuttosto complessa che negli anni 80 veramente diventerà una cosa piuttosto, insomma, difficile anche da decifrare. Quindi anche chi ama il funk non ama molto le sonorità elettro funk degli 80, per questo, insomma, arrangiatevi un po', poi magari appunto ci sono delle coordinate, tipo un libro di George Clinton sul funky che li spiega, insomma, che diavolo è successo, insomma, un protagonista che spiega la mutazione genetica anche tra funk 70 e quello degli anni 80. E dopo Edwin Birdsong e questi discorsi lunghi, polemici, eccetera, eccetera, miei. Oggi sei lungo, va bene, ma giusto, lungo, ci sono, no, tante sono cose importanti, hai ragione. Comunque, allora vado veloce io, dai, perché se no non riusciamo a mantenere. No, no, ma hai ragione. No, io sono importante. Io ho un libretto delle tue. Io sì, ti registro. Annoti tutto. E poi le riporto su testo. Poi studio. Tu non lo sai. Poi a casa, quando vado a letto, li studio e dico, mazza, però. Bisogna tener conto. No, no, non so. Comunque, andando veloci, perché non è che purtroppo non è che dipenda da noi, scatta questo maledetto o benedetto, secondo i gusti, GR di Radio Popolare tra poco. Dunque, velocemente mandiamo un'altra formazione che è stata sicuramente molto importante e rivoluzionaria nella fine degli anni 70 e inizio anni 80 per l'utilizzo del computer nella loro musica, nel pop e l'elettropop che portavano avanti, con l'uso assolutamente geniale, poi in caso ritorneremo sull'argomento, del vocoder, spesso abusato e utilizzato in maniera veramente aberrante, soprattutto negli ultimi anni, appunto. Invece all'epoca, quando veniva utilizzato forse per la prima volta in una certa dance legata all'elettro, alla computer music, era assolutamente geniale. Parliamo di una formazione, appunto, nata nel 78 a Dayton, Zapp, che è praticamente la famiglia Trautmann, con tutti i fratelli e sorelle connessi, e chiaramente ci mandiamo il disco uscito nel 1980, intitolato proprio omonimo, The Zap, e dopo in caso rientreremo per dire qualcos'altro. Intanto godiamoci questo disco del 1980, Zap. We'll be right back. E benissimo, siamo rientrati con questo splendido brano degli Zap e continuando sulla scia di questa formazione, qui abbiamo detto alcuni elementi ma assolutamente fondamentale nello sviluppo di una certa electro, l'uso soprattutto della computer music all'interno di questa dinamica con una ricerca molto particolarizzata soprattutto dell'uso del vocoder ma anche della battuta secca che poi farà parte di tutta la scena electro ma anche di tutta la scena successiva che poi ovviamente prenderà come riferimento anche questo percorso, e parlo ovviamente dell'house della techno che si elaboreranno e si svilupperanno negli anni 80. E continuiamo in questo versante dal disco del 1980 Zap, andiamo a trovare invece un album solista di uno dei componenti e personaggio assolutamente poliedrico, Roger Troutman, uno della famiglia Troutman presente in questa assoluta particolarità che poi è stata anche una particolarità dei fratelli Jackson, dato che tu l'hai lanciata, dunque anche qui sì, no? Sì. Dunque ci colleghiamo, vedi, volevo non farti parlare ma alla fine ti ho fatto parlare, vedi? Ho fatto dire solo sì, dai. Perché parla troppo, eh? Questo è un giochino che facciamo noi ma va bene così. Dicevamo, Roger Troutman, che appunto con tutta la famiglia aveva costituito questo progetto Zap, ha portato avanti anche negli anni 80 dei progetti omonimi a suo nome, completamente singoli, e uno di questi dischi, che è anche molto carino il titolo, The Many Faces of Roger Troutman, le molte facce di Roger Troutman, e si vede proprio la copertina molto inizio 80 con le sue facce incollate, varie facce anche abbastanza divertenti, ha portato avanti il suo progetto sempre rimanendo su questa scia di elettropop con l'utilizzo sempre molto interessante e valido del vocoder, e ce l'andiamo a sentire. Poi partirà ovviamente GR di Radio Popolare, ci risentiremo intorno a 12:50. Intanto Roger Troutman.